l'autista, spiacente del filobus. La strada è tutta bloccata, la pioggia che viene giù. Due gocce appena Roma si allaga, è meglio se buy un foot. Piazza Trilussa, via della Scala è sempre là. C'era seduta una vecchia, più vecchia del tempo che fu. Vendeva tabacco e lavanda, e adesso però non c'è più. Tanto tempo fa, proprio in questo bar, entrammo soliti, fradici giovani, in un giorno di pioggia così. La pioggia è qualche cosa che succede nel passato, come parole che gli amanti si dicono. Acqua che scivola dentro un tombino. Maria, il cielo si è aperto un po', un timido raggio di sole si è proprio posato lassù, sulla faccia di San Callisto, che guarda stupito noi giù. Splende la città, la comare se ne va. Cronistica, in chiesa mistica, al suono lieto delle campane. La pioggia è qualche cosa che succede nel passato, come parole che gli amanti si dicono. Acqua che scivola dentro un tombino.